Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora subito uno sguardo ai mercati che nonostante un'apertura incerta di Wall Street si stanno mantenendo più che positivi in Europa, rialzi intorno a 4 punti percentuali, la migliore è Londra, più 5%, bene anche Milano, più 4,5% sull'S&P MIB e ancora Francoforte più 4,20%, Parigi più 4,6%. L'America diciamo aperto incerta, adesso però è in terreno positivo più 0,7% sul Dow Jones, sul Nasdaq un punto percentuale di rialzo, euro in calo 1,3468, soprattutto il petrolio è in calo oggi anche se in leggera ripresa nelle ultime parti della contrattazione perché è stato indetto un vertice straordinario dell'OPEC da dove dovrebbe uscire un taglio della produzione. I paesi produttori ritengono che il petrolio a $70 sia troppo basso. Per quello che riguarda i titoli, tiene ancora banco la vicenda Unicredit dopo l'ingresso dei libici e su questo oggi abbiamo anche le dichiarazioni di Alessandro Profumo a margine dell'incontro tra banche e industriali proprio per capire come la crisi finanziaria non si trasferisca in un minor credito o in un credito più caro alle imprese che ne hanno bisogno. Tenaris più 9,3%, Unicredit più 9,2%, Eni più 8,80%, Intesa più 8%, Italcementi più 8%, Terna sospesa dalle contrattazioni guadagnava il 7,90%, Intesa più 7,90% anch'essa, torna a 3 euro per azioni Intesa. Bulgari più 6,70%, ST Microelectronics più 6%, Enel più 5,5%, Atlantia più 5%, Unipol più 4,80% come Mediaset e invece guadagna il 4,3% Seat pagine gialle, il 3,6% in Pregilo, ma anche Geox, il 3,5% Parmalat, il 3,2% è a rialzo di Luxottica, il 2,90% quello della Banca Popolare di Milano, il 2,80% quello di Autogrill e Alleanza Assicurazioni, il 2,5% è a rialzo di Lottomatica e di Fastweb, il 2% lo guadagna Fiat e parleremo nel corso del programma del piano per primo avanzato da Sergio Marchionne ma che ha avuto per esempio ieri sera qui a Milano anche l'adesione del numero 1 della BMW a livello mondiale, il piano di aiuti e incentivi per l'industria dell'auto europea, l'Espresso più 1,5%, Mondadori più 1%. Chi è negativo oggi? Prismian perde il 2,90%, il Monte dei Paschi pure, Saipem 1,70%, Snam Rete Gas perde lo 0,8%. I temi che tratteremo, in apertura chiaramente l'incontro tra Confindustria e banche per capire, ripeto, come non chiudere i rubinetti del credito, il cosiddetto credit crunch nei confronti delle imprese. A noi arrivano numerose segnalazioni anche di imprese artigiane, di commercianti di maggiori difficoltà nel rinegoziare i mutui, sono mutui o le linee di credito per gli investimenti, tassi più alti. La stessa ABI ammette che il tasso di rifinanziamento è più alto perché è più alto in generale il costo del denaro tra banche. Ancora per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria parleremo, si diceva, dei mercati, dell'auto e del tema ambientale perché oggi dall'Europa, dal Commissario Europeo all'Ambiente è arrivata una critica abbastanza pesante alla posizione italiana. L'Italia non ha fatto capire in maniera molto chiara anche attraverso il Presidente del Consiglio Berlusconi non vuole accettare il piano sulle emissioni di inquinanti a livello europeo, in primo luogo lo CO2, il piano previsto perché è un piano troppo oneroso per le imprese, troppo oneroso per un paese che ha soprattutto imprese manifatturiere e quindi chiede anche una diversa applicazione, una dilazione in qualche modo, adesso ne parleremo dei tempi. Ancora per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo di Unicredit, dell'ingresso dei libici, dello stato dell'arte in tema di fondi sovrani che adesso fanno paura a molti governi, però in America sono entrati e hanno fatto uno shopping imponente in questi mesi. Già altre volte toccammo il tema: i fondi sovrani sono quei fondi che sono espressione di un paese, di un governo, non di alcuni privati. 349 238 6666 per i vostri SMS. Vedo già molti messaggi e dicono: attenzione, cosa succede a Monte dei Paschi, come mai le borse recuperano? Allora, le borse recuperano perché ieri ha chiuso bene Wall Street, questo è il dato che noi vediamo. Si è lontani, si sta recuperando, si tornerà lunedì a perdere, questo non lo sappiamo. Chiaro è che i primi due giorni di rialzi sono stati annullati da due giorni di ribassi. Vedremo cosa succederà poi lunedì. Non canterei vittoria, resterei cauto, molto cauto, perché la situazione è tutt'altro che chiara e sicuramente non risolta. Rapidamente le notizie in breve. Dicevamo del petrolio. Per quello che riguarda il clima, se il Consiglio europeo ieri ha deciso di mandare a dicembre tutte le scelte sul pacchetto di misure per combattere le emissioni nocive, il cosiddetto 20 più 20 più 20, cioè 20% in meno di CO2 entro il 2020, quota rinnovabile al 20%, energie rinnovabili che devono crescere del 20% e riduzione dei consumi energetici del 20%, ma dopo la minaccia di veto, minaccia non solo italiana ma anche polacca, e comunque la Germania non è che fosse contentissima di questo piano, assieme anche a molti paesi dell'est, appunto tutto rinviato a dicembre. Il costo indicato dal governo italiano è di 20 miliardi di euro l'anno per l'Italia, e oggi, dicevo, il commissario europeo all'ambiente Stavros Dimas si è detto allibito per le obiezioni avanzate dall'Italia sul pacchetto di misure europee sul clima, dicendo che l'Italia invece è uno dei paesi che farà l'affare migliore da queste misure. Poi ha precisato che non c'è battaglia con l'Italia, ma anzi si sta avviando una cooperazione. Gli ha risposto poi nel pomeriggio il ministro Prestigiacomo, che è ministro all'ambiente, dicendo: prima di sbalordirsi, il commissario Dimas dovrebbe rileggere il documento diffuso dalla Commissione, non dal governo italiano, e dove appunto sono presenti i costi per il sistema. In quel documento si parla di 60 miliardi di euro l'anno come costo complessivo per i paesi europei. Una buona notizia in queste giornate in cui le buone notizie sicuramente latitano: l'Euribor è sceso l'Euribor a tre mesi, il tasso quindi interbancario che si calcola anche per i mutui, per i prestiti, meno 33 punti in una settimana, e quindi è sceso al 5,05%. Questa è una conseguenza della riduzione dei tassi di interesse. Devo dire che 33 punti si avvicinano molto ai 50 punti tagliati dalla Banca Centrale Europea. Questa mattina, da segnalare in tema di borse, che in Asia la situazione resta molto molto incerta, perché Sydney aveva perso, Seoul anche, Tokyo aveva guadagnato, Shanghai invariata. Insomma, l'Asia, in Asia domina l'incertezza e la volatilità sulle borse. Per quello che riguarda invece i dati congiunturali, forte ribasso in America di costruzione, nelle costruzioni di nuove case, peggiore di ogni attesa, meno 6%, così come scende la fiducia misurata dai consumatori del Michigan e scende a 57,5 punti, e ha parlato di nuovo il presidente uscente Bush, che ha detto: ci vorrà un po' di tempo per uscire dalla crisi dei mutui, ma occorre mantenere la fiducia. Il nostro paese sta affrontando una crisi finanziaria molto seria. Molti americani sono preoccupati della loro situazione finanziaria e della dimensione dell'intervento dello Stato nel mercato. Nel corso dei miei incontri con gli imprenditori e le famiglie in tutto il paese, ho sentito lo stesso messaggio. Gli americani vogliono avere una spiegazione chiara su cosa questa crisi potrebbe significare per loro, su cosa sta facendo il governo per porre rimedio alla crisi e sulle conseguenze sul libero mercato. Libero mercato che rende la nostra economia così dinamica e prospera. Il governo ha risposto alla crisi con misure aggressive per proteggere gli americani. La gente guarda a questa crisi come se fosse limitata entro le mura di Wall Street, ma non è assolutamente così. E so che se non avessimo agito, la crisi avrebbe avuto effetti ancora più gravi sui contribuenti. Ci vorrà un po' di tempo per uscire dalla crisi, ma occorre mantenere la fiducia. Gli Stati Uniti stanno collaborando a stretto contatto con i partner europei per uscire dalla crisi. La scorsa settimana ho incontrato i ministri finanziari del G7 e del G20. Domani a Camp David mi incontrerò con il presidente Sarkozy e il presidente della Commissione europea, Barroso. I nostri partner europei stanno prendendo misure coraggiose e hanno dimostrato al mondo che siamo determinati ad affrontare questa sfida insieme. Hanno tutto il supporto degli Stati Uniti. Sempre in tema di difficoltà del mercato, senza creare allarmismi, ma il colosso finanziario olandese ING, quello del conto arancio, sta crollando in borsa ad Amsterdam. È arrivato a perdere fino al 20%, poi ha avuto un calo del 10% sulle voci secondo cui il gruppo avrebbe bisogno di ulteriore liquidità. E comunque quello di oggi è il maggior calo di borsa per ING da quando il titolo è quotato, cioè dal 1991. E allora il caso Unicredit, ne parleremo tra un attimo, poco prima dei mercati. Abbiamo, ripeto, anche il commento di Alessandro Profumo. Devo dire, la borsa ha ben reagito all'ingresso dei libici. I romani dicevano pecunia non olet, il denaro non ha odore, e quindi in questi periodi di vacche magre va bene qualunque tipo di ingresso dei capitali. I timori degli stati nazionali sono però che in alcuni settori, vedi il caso energia, industria dell'aerospazio, difesa, anche in alcuni casi le telecomunicazioni, l'ingresso dei fondi sovrani possa essere un problema quasi più di politica estera e quindi di relazioni tra paesi che non di semplice partecipazione azionaria. Un'ultima notizia anche per sorridere, se vogliamo sorridere: stanno cambiando le abitudini degli italiani di fronte alla crisi in atto, non solo quella finanziaria, anche il rallentamento dell'economia. Allora, qualcuno di voi si ricorda l'orbace, almeno immagino che i più anziani ricorderanno il tipico tessuto ai tempi del ventennio fascista. Ebbene, l'orbace era il prodotto dell'autarchia del fascismo, quindi di riuscire ad essere autosufficienti, con la famosa pubblicità "la lana di pecora e la lana degli italiani", che venne cambiata subito da Mussolini, perché insomma c'era una similitudine non così maschia. Ebbene, si torna a vestire autarchico. Oggi al forum della Coldiretti di Cernobbio è emerso che tra l'altro è stata presentata la prima collezione di capi da uomo e donna ottenuta proprio da alcune fibre autarchiche. L'orbace, che garantisce qualità e costi più contenuti di fronte al caro prezzi e al caro della produzione estera di lana. Lana cotta da pecora massese per la giacca e per signore. Si è arrivati anche al completo fatto di ortica, il giaccone sportivo di orbace di pecora sarda e il tailleur di orbace sempre di pecora sarda. Cosa più interessante, perché qui sorridiamo, ma più seria e interessante, è che la crisi finanziaria si sta facendo sentire anche a tavola, tanto che 4 italiani su 10 hanno cambiato le proprie abitudini alimentari. In sostanza, dalla ricerca presentata oggi a Cernobbio dalla Coldiretti emerge come il crollo delle borse mondiali e soprattutto la paura della recessione facciano più paura della guerra. E poi anche c'è una preoccupazione per la contaminazione. Il caso del latte cinese la dice lunga. La melamina nel latte cinese, i formaggi contraffatti, il caso del Galbani con tutte le polemiche che ne sono conseguite. Ebbene, gli alimenti acquistati cambiano. In che senso? Si fa molta più attenzione alla provenienza dei cibi e alla lettura delle etichette, il 40%, e aumenta, il 40% fa attenzione a questi elementi, e cresce dell'8% la percentuale di chi acquista regolarmente prodotti a denominazione di origine e del 23% la parte di popolazione che compra prodotti biologici. Allora, partiamo con la fotografia della nostra economia, le preoccupazioni forti, serie degli industriali che questa crisi non generi o non aumenti le difficoltà nel concedere credito. Partiamo purtroppo con un dato non bello. Oggi l'Istat ha diffuso tutta la fotografia e i dati congiunturali tendenziali dell'andamento della nostra industria ad agosto, quindi aspettiamo anche settembre per capire meglio la piega che ha preso, però già la contrazione si registra e si vede. Meno 11% rispetto all'agosto del 2007 il fatturato delle nostre imprese, e rispetto al mese precedente meno 3%, particolarmente male la meccanica meno 23%, l'elettronica meno 20%, i mezzi di trasporto meno 23%, la chimica meno 11%, tessile e abbigliamento meno 18%, pelli e calzature meno 16% e l'industria del mobile meno 32%. Male anche gli ordinativi all'industria, meno 5% rispetto all'anno prima, e anche qui soffrono soprattutto i mobili, meno 40%, tessile abbigliamento meno 20%, pelle e calzature meno 20% e meccanica meno 13%. Come mai? Beh, i consumi non sono certo eccellenti in questo paese, ma soprattutto nel momento in cui si contrae la Germania, la Francia, il rischio la Francia andrà in recessione, seppur di poco, la Germania lo rischia, l'America cerca di capire quanto stagnante e quanto recessivo sarà il suo andamento economico. È chiaro che le difficoltà ci sono anche per le nostre imprese, visto che in questo anno e mezzo il vero driver, il vero elemento guida nella crescita economica sono state le esportazioni. Già ieri il dato del commercio con l'estero era un dato brutto, esportazioni diminuite dell'8%, importazioni meno 2%, con un calo brusco dell'export verso la Germania, verso la Francia, verso la Spagna e verso la Gran Bretagna e America, meno 11 verso la Germania, meno 16 verso la Francia, meno 17 verso la Spagna, meno 20% verso l'America e meno 23% verso la Gran Bretagna. Male anche l'export in Cina, meno 18%, in Giappone meno 14%, in Made in Italy invece va bene, un po' si è salvato con i paesi OPEC più 11% e anche il Sud America più 7%. E adesso arriveremo anche all'incontro oggi tra banchieri e imprenditori. Sentiamo però prima la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono della nostra Valeria De Rosa proprio commentare questi dati su fatturato e ordinativi industriali. Purtroppo siamo, come diciamo ormai da tempo, in una fase molto complessa, molto difficile. A maggior ragione, proprio per questo, dobbiamo fare in modo che non manchi il credito alle imprese. Quindi è evidente che siamo davanti a un rallentamento dell'economia italiana e dell'economia internazionale, questo spiega anche il calo dell'export, quindi dobbiamo fare di tutto proprio per supportare il mondo delle imprese in questo momento difficile. E allora il credito alle imprese, ossia il rischio stretta nel credito per le imprese italiane. Se l'Euribor è sceso al 5,05%, i timori rimangono. Devo dire che parlando anche off the record, cioè quindi senza essere citati, con alcuni degli intervenuti al tavolo c'era una discreta e cauta soddisfazione. Molti imprenditori hanno detto che le banche hanno capito il problema e si sono detti d'accordo nell'avere tavoli anche su base territoriale tra imprenditori e banche per segnalare i casi di maggiore difficoltà qualora un istituto o una sua filiale dovesse in maniera irragionevole e immotivata aumentare il costo del rifinanziamento. E comunque tra gli interventi concordati oggi tra l'ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane, e la Confindustria c'è anche il recupero dei crediti verso la pubblica amministrazione da parte del sistema imprenditoriale italiano, che sono crediti che valgono tra i 60 e i 70 miliardi di euro, come ha ricordato Emma Marcegaglia, sempre la nostra, Valeria De Rosa. La paura è che nei prossimi mesi possa mancare il credito alle imprese, ma questa riunione di oggi è stata una riunione importante. Abbiamo avuto assicurazione dal sistema bancario italiano che c'è la volontà di seguire le esigenze delle imprese. Noi abbiamo detto con chiarezza che tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Banca Centrale, dallo Stato a favore del credito, del mondo del credito, deve poi tradursi in maggiore credito che le banche danno alle imprese, questo è fondamentale, e proprio per verificare che questo succeda abbiamo deciso di fare tavoli di monitoraggio di come va il credito giorno per giorno in tempo reale, quindi in ogni città ci sarà un tavolo tra banche e imprese per verificare come andrà l'andamento del credito dato alle imprese. E abbiamo anche deciso di lavorare insieme su alcuni temi fondamentali. Per esempio, lo Stato ha circa 60 miliardi di debiti nei confronti del sistema imprenditoriale italiano e in certi casi paga a 300 giorni. Questa è una situazione non reggibile, quindi lavoreremo su questo con una proposta per far sì che invece questi crediti vengano pagati velocemente. Lavoreremo anche sui confidi, cioè su forme di garanzia che appunto le Camere di Commercio possono dare appunto ai crediti delle imprese. Quindi cercheremo di lavorare per far sì che i prossimi mesi, che certamente non saranno mesi facili, siano mesi in cui non manchi il credito alle imprese, si possa uscire da questa situazione. Noi vogliamo anche dare un messaggio di fiducia. La situazione è difficile, ma se lavoriamo tutti insieme con senso di responsabilità possiamo uscire da questa situazione. Allora, per quello che riguarda invece la crisi dei mutui, ma sul fronte, la crisi del credito sul fronte bancario, il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ha elencato i punti allo studio per migliorare le varie condizioni del credito alle imprese. Tentare di sbloccare i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nel avviare dei confronti a livello territoriale con, direi, con le associazioni territoriali di imprese e con le nostre aziende, attraverso anche la rappresentanza che abbiamo noi sul territorio a livello regionale, ecco, e seguire insieme anche l'evoluzione del mercato del funding e, direi, insieme accelerare al massimo il funzionamento più dinamico e più adeguato di quelle forme di garanzia collettiva che sono i confidi. Ovviamente dietro questo ci sono tutta una serie di problemi da risolvere che attengono soprattutto ai sistemi istituzionali delle banche centrali in particolare, e in qualche misura anche da parte del governo. Così Corrado Faissola al microfono della nostra Valeria De Rosa, la quale però in conferenza stampa congiunta del presidente dell'ABI e del presidente di Confindustria ha anche chiesto se gli spread, ossia le differenze applicate ai prestiti concessi alle imprese, abbiano subito degli aumenti. Lo spread è la differenza tra il tasso ufficiale, sono quello, non è nemmeno quello della Banca Centrale Europea, l'Euribor di solito, e quello che in più ci aggiunge la banca correttamente per guadagnarci, quindi lo spread è questo. Sentiamo la risposta. Sì, noi abbiamo anche in previsione di questo incontro fatto un sondaggio abbastanza ampio sulla nostra base, quindi non sono dati, come dire, statistici aggregati precisi, però danno un senso della situazione. E sì, devo dire che alcuni nostri associati rilevano e evidenziano alcuni aumenti di spread. In alcuni casi, poi dipende dalle aree del paese, dipende dai settori, dipende da tante cose, però questo tema dell'aumento degli spread c'è. Io vorrei aggiungere che dal punto di vista fondamentale del credito abbiamo avuto una convergenza piena, che il credito ha il tasso di... La dinamica della crescita degli impieghi non si è assolutamente fermata, è a dei livelli molto alti. Circa il problema dei prezzi, non c'è stata una politica da parte delle banche di rialzo sistematico dei tassi, se non per riportare i tassi medesimi a livelli di competitività. Se, come purtroppo temiamo, l'economia non riprenderà vigore in tempi brevi, i tassi, a nostro giudizio, non dovrebbero salire, ma dovrebbero scendere. Io sono più, come dire, pesante. La nostra posizione è che la Banca Centrale Europea dovrebbe calare i tassi in modo importante. Ovviamente, contrariamente a quello che è stato talvolta letto, scritto e quindi letto, le banche non hanno nessun interesse che i tassi siano alti. Lavoriamo sempre in termini di spread, di margini, ecco, rispetto al tasso che viene applicato al costo del denaro a noi. Ecco, purtroppo oggi abbiamo un costo del denaro che è nettamente superiore a quello che la razionalità e lo stesso tasso di riferimento, perché abbiamo visto la riduzione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, non ha portato a una corrispondente o comunque a una significativa riduzione dei tassi di mercato. Beh, insomma, è interessante che lo stesso presidente dell'ABI, delle banche italiane, riconosca come il tasso con cui le banche si prestano soldi in questo periodo non è corrispondente al tasso ufficiale di sconto e quindi all'andamento dei tassi ufficiali. Perché? Perché siccome non c'è fiducia, non c'è voglia di prestare denaro se non con garanzie molto alte, che poi si chiamano alti tassi di interesse, resta una situazione abbastanza paradossale. Sentiamo però anche l'ultimo intervento, quello di Emma Marcegaglia, sulla decisione o perlomeno la presentazione di un pacchetto di proposte per aumentare la capitalizzazione delle imprese italiane, che è un problema storico, strutturale. Le imprese italiane sono troppo poco capitalizzate, cioè hanno pochi capitali loro, tendono ad avere una fragilità poi anche negli investimenti. Sentiamo la proposta. Noi vogliamo lavorare su un pacchetto di richieste al governo per spingere e aiutare e rendere più conveniente la capitalizzazione delle imprese italiane. Noi ancora soffriamo di una scarsa capitalizzazione, è evidente che in momenti come questi avere più capitale è molto utile, quindi noi a brevissimo faremo una proposta che condivideremo con ABI da porre poi al governo su una serie di strumenti che spingano la capitalizzazione, la detassazione degli utili investiti, una tassazione agevolata per quella parte diciamo per il capitale che viene immesso all'interno delle imprese, un tema sulle rivalutazioni, sugli ammortamenti, insomma faremo un pacchetto per proprio portare alla capitalizzazione delle imprese. Questo quindi il tavolo o la sintesi di quello che è emerso dal tavolo tra Confindustria e banche. Importante che ci sia stato, e importante quanto ricordavano i due presidenti Marcegaglia e Faissola, poi che questi tavoli vengano riproposti, riprodotti anche su base territoriale, non solo su base nazionale. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, alcuni messaggi su ING, quindi conto arancio. Lo abbiamo detto più volte, comunque vale la pena ripeterlo, anche ING e conto arancio fanno parte, come deposito bancario, della garanzia di 103.000 euro a individuo, per cui come tutti gli altri depositi bancari. Garanzia che dopo le iniziative del governo col decreto legge non è solo più una garanzia fornita dal fondo interbancario da 500 e passa a 520 miliardi di euro, ma garantisce lo Stato comunque. Per cui tranquilli su questo, è un deposito come tutti gli altri depositi bancari, il conto arancio. Ancora, alcuni di voi un ascoltatore chiede come mai le più importanti borse mondiali sono a New York, a Londra e a Tokyo e non a Las Vegas. Eh sì, non è male, viste le sedute non è male. Molti di voi ci chiedono di capire se le borse abbiano compiuto il giro di boa. Boh, sì, ma il problema è verso dove, perché insomma, in questo momento non penso ci siano molti operatori in grado di capire quanto a lungo, così rispondo anche a altre domande, durerà questa crisi e soprattutto quanto, lo ripeto fino allo sfinimento, si trascinerà sull'economia reale, perché un conto è parlare di pessimi andamenti di borsa, mai così brutti da 20 anni e forse da 50, altra cosa è poi parlare di rallentamento, recessione, stagnazione economica. Comunque, la notizia che tiene banco tra ieri e oggi è anche in Italia, devo dire che ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, non perché siamo più bravi, ma perché all'estero sta capitando da mesi, ossia l'ingresso dei fondi sovrani anche nel nostro paese. Ho o meglio nelle banche del nostro paese, perché insomma noi quanta esperienza di fondi sovrani proprio con la Libia ai tempi della FICO, della Fiat, non possiamo insegnare niente, non possiamo imparare niente da nessuno. Però che cosa è successo in questi mesi? Da quando la crisi è scoppiata in tutta la sua forza, e quindi diciamo fine anno scorso, inizio 2008, nel novembre del 2007 Abu Dhabi ha comprato azioni di Citigroup per 7 miliardi e mezzo di dollari. Poi è arrivato il Kuwait, sempre come fondi sovrani, cioè fondi dello Stato, che si è comprato 5 miliardi di dollari di capitale di Citigroup. E sempre tra gennaio e dicembre il fondo sovrano di Singapore ha comprato quota di Merrill Lynch per 4 miliardi e mezzo di dollari e ha comprato anche il 9% dell'Unione delle Banche Svizzere, UBS, prima banca in Europa, almeno era la prima banca in Europa, non so adesso con i vari cali di borsa. Sempre a gennaio il fondo Korea Investment Corporation, quello che avrebbe dovuto salvare Lehman Brothers, poi alla fine ha detto no e Lehman Brothers è saltata per aria, si è comprato una bella quota di Merrill Lynch perché ci ha messo dentro 2 miliardi di dollari. E a gennaio il Kuwait è tornato a comprare pezzi dei colossi bancari americani, ha comprato infatti una quota di Merrill Lynch pari a 4 miliardi di dollari. Si arriva così a ieri, quando la banca centrale libica ha acquistato azioni Unicredit sul mercato e ha portato la sua partecipazione dello 0,87 al 4,2%. In sostanza ha comprato azioni di Unicredit pagandole pochissimo, visti i cali del titolo, 1 miliardo di euro, ed è il secondo azionista di quella che è la prima banca italiana come dimensioni e la terza, se non ricordo male, in Europa, è il secondo azionista di pochissimo, superato dalla fondazione Cari Verona. Dico che le ha pagate poco perché diciamo solo ad aprile il titolo valeva ancora 5 euro e adesso di euro ne vale poco più di 2,3, per cui le ha pagate diciamo almeno la metà rispetto a quanto le avrebbe pagate ad aprile. E non è un caso, perché Unicredit ha visto dimezzare la sua capitalizzazione, quindi il valore di borsa, moltiplicando titoli e valore delle azioni, da 77 a 31 miliardi di euro, quindi ha ridotto di più della metà la sua capitalizzazione in circa un anno e mezzo, quando il titolo viaggiava a 7 euro e passa per azione. Tra l'altro fino ad ora Unicredit ha annunciato di avere solo un miliardo di euro di svalutazione dovuta agli investimenti in strumenti collegati ai mutui subprime. Lo scorso 5 ottobre però la banca ha annunciato un aumento di capitale, quindi la richiesta di portare più capitale, più soldi in cassa per 6 miliardi e 600 milioni di euro, con l'ammissione di Alessandro Profumo di aver sbagliato a fare certe acquisizioni e operazioni, visto poi il periodo che si presentava davanti. Tutti hanno pensato anche all'operazione con Capitalia, quando un anno fa Unicredit ha acquisito il controllo di Capitalia attraverso una fusione per incorporazione. E allora sentiamo che cosa ha detto Alessandro Profumo proprio sull'operazione libica alla nostra Valeria De Rosa, a margine dell'incontro tra Confindustria e banche. Credo che sia una manifestazione del fatto che ci sono degli investitori che considerano Unicredit un'ottima azienda, come peraltro continuo a considerarla anch'io, e il nostro consiglio di amministrazione. Quello che credo che sia importante è il fatto che è stato fatto un investimento rilevante e che questo appunto accompagna lo sviluppo della nostra azienda. Ricordo che noi abbiamo un limite al diritto di voto al 5%, quindi chiunque può comprare quello che vuole sul mercato, dopodiché il limite al diritto di voto, che peraltro ad esempio si applica già con la Cassa di Risparmio di Verona, no? Hanno più azioni del 5% ma votano per il 5%, e questo è quello che i nostri azionisti e il Consiglio di Amministrazione hanno deciso di avere nello statuto della società. Allora, Allora, alcuni di voi scrivono: speriamo che sia un anno bisesto, anno funesto e poi basta. Vabbè, c'è anche questa, giustamente. Andiamo avanti con le dichiarazioni di Alessandro Profumo, il quale ha ribadito che i titoli scambiati ieri con la Banca d'Italia, che ha messo a disposizione dei titoli di Stato in cambio di azioni, non erano asset tossici, non erano assolutamente titoli tossici. E poi ha commentato, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa, il fatto, il suo stipendio. L'anno scorso Alessandro Profumo ha guadagnato 9 milioni e 400 mila euro. Ha specificato però che quest'anno perderà i bonus. Per fortuna non sono io che decido queste cose, nel senso che noi abbiamo una buona governance anche per quanto riguarda la parte di compensation. Una parte molto rilevante della mia compensation, del mio stipendio, chiamiamolo come si vuole, è legato al raggiungimento dei risultati. Quest'anno non raggiungiamo i risultati e in automatico quella parte scompare. Allora, la borsa adesso, mentre alcuni di voi insomma hanno teorie un po' così bizzarre sul motivo di questa crisi, e di nuovo dicono che insomma siamo noi giornalisti che la pompiamo, vabbè, inutile anche controbattere queste cose. Andate a vedere l'estrato conto bancario se avete un dei titoli in borsa, e poi mi dite se anche in banca sono i giornalisti che abbassano il valore dei titoli. I mercati finanziari con, come sempre, Radio Core, Il Sole 24 Ore. E allora oggi, per quello che riguarda la borsa, la giornata è più che positiva, più 4,1% Mibtel, più 4,5% S&P Mib, più 4,7% Parigi, più 3,4% Francoforte, più 4,4% Londra, l'America. Adesso però perde 0,5 percentuale. Molto bene oggi Eni, più 14,5, torna 15,36 euro, Terna più 9,9, Tenaris più 7,90, Unicredito più 7,6, Italcementi più 7,5, Telecom Italia più 5,4, Intesa più 5,2 e Bulgari più 4,7%. Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Eni, Terna, Tenaris, tutti forti gli energetici oggi, anche se il petrolio è a 70. Esatto, il petrolio è scivolato ieri, soprattutto oggi ha mostrato un lieve recupero, ma si è tornati a comprare tutto il comparto. È scattata soprattutto una caccia cosiddetta ai buoni affari. Se la borsa torna su, ovviamente gli investitori vanno ad acquistare proprio le azioni delle società considerate più solide e che ultimamente hanno perso più punti, e quindi appunto Eni, ma anche le altre che hai menzionato tu, vengono considerate società dagli ottimi fondamentali che agli attuali prezzi di che non si riflettono negli attuali prezzi di borsa. Questo spiega l'andamento dei titoli energetici. Sulle borse invece, molto bene Unicredito più 7,6, scusami, sulle banche più 7,6, ma anche Intesa più 5,2. C'è un'unica eccezione di rilievo, che il Monte dei Paschi perde il 3,3%, anche UbiBanca nel finale ha ceduto l'1,8% e Mediolanum il 2,2%. Sì, guarda, il Monte dei Paschi diciamo che era stata la banca che nei giorni del calo aveva retto meglio rispetto ad altri titoli. E oggi è andata giù comunque sul timore che l'istituto non riesca a raggiungere i ratios patrimoniali entro fine anno, in quanto questo è legato a doppio filo alle operazioni di cessione e degli immobili e dei 150 sportelli che la banca dovrebbe cedere e che appartengono a Banca Toscana. Sembra che siano in corsa Barclays e Deutsche Bank, però è tutto ancora da fare e da vedere. Quindi la borsa, prima che ovviamente il Monte dei Paschi non abbia incassato la cifra e quindi non abbia chiuso gli accordi, evidentemente si mostra scettica. Ancora sui titoli altri andamenti. Per quello che riguarda i cali, anche Snam Rete Gas perde lo 0,9, Prysmian ha perso il 3,5%, A2A il 2%. Hanno guadagnato, oltre i titoli ricordati, invece anche Bulgari più 4,7, ST Microelectronics più 4,6, Seat, Enel, Mediaset, Unipol e Atlantia il 3%, così come Luxottica. Grazie Eleonora Micheli, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. 18 e 11 minuti, nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di settore auto e poi del tema delle emissioni di gas nocivi, i costi per i sistemi economici dei vari paesi europei dopo la minaccia dell'Italia ma anche della Polonia di porre il veto all'intero pacchetto e lo scetticismo sul pacchetto espresso anche dalla Germania e da alcuni paesi dell'est europeo. Allora, le borse, per chi si fosse appena messo in collegamento, hanno chiuso più che bene. Bene Milano, più 4,2, 4,5 l'S&P MIB, molto bene anche Parigi, più 4,7, Francoforte più 3,4, Londra più 5,2. In America adesso è leggermente negativa. E oggi c'è stato l'incontro, lo dico che si fosse messo in collegamento, tra imprese, ossia Confindustria, e banche, ossia l'ABI, nella giornata in cui si è avuto un dato molto brutto sul fatturato delle imprese italiane relativo ad agosto, meno 11% fatturato, meno 5,2% gli ordinativi. La Presidente Confindustria Emma Marcegaglia ha detto che proprio alla luce di questi dati che sono relativi ad agosto è necessario non far mancare risorse finanziarie alle imprese. Purtroppo siamo, come diciamo ormai da tempo, in una fase molto complessa, molto difficile. A maggior ragione, proprio per questo, dobbiamo fare in modo che non manchi il credito alle imprese. Quindi è evidente che siamo davanti a un rallentamento dell'economia italiana e dell'economia internazionale. Questo spiega anche il calo dell'export. Quindi dobbiamo fare di tutto proprio per supportare il mondo delle imprese in questo momento difficile. E sempre in tema di imprese, si discute molto in Europa della richiesta che è arrivata dall'Associazione dei produttori di auto, l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, che ha chiesto insomma un insieme di agevolazioni, di finanziamenti agevolati per complessivi 40 miliardi di euro per sostenere il mercato e lo sviluppo di nuove tecnologie anche nell'auto finalizzate a ridurre le emissioni nocive e poi anche incentivi alla rottamazione per le auto di oltre 8 anni di età per un periodo di 36 mesi. Sergio Marchionne l'aveva già ricordato, numero uno della Fiat, la settimana scorsa, dicendo in sostanza in America il governo ha messo a disposizione 25 miliardi di dollari per aiutare il comparto dell'auto e visto che i dati in Europa vanno male, meno 8% l'ultimo dato sulle immatricolazioni nel mese di settembre. Le previsioni sono negative anche su ottobre. Il nostro Paolo Piacenza ha intervistato ieri il presidente mondiale del gruppo BMW che era in Italia, Norbert Reithofer. La crisi, a mio avviso, durerà tutto l'anno 2009. Ecco la crisi. Avete annunciato la chiusura di alcune linee produttive dello stabilimento di Lipsia per 4 giorni a fine ottobre. In settembre avete dichiarato un calo complessivo del 14,6% e meno 16,9% in Europa. Quali sono stati i vostri punti deboli? A settembre abbiamo dovuto affrontare alcuni nodi strutturali. Abbiamo avuto il facelifting della serie 3 Berlina e Touring, cosa che i clienti sapevano. E abbiamo avuto il lancio della nuova serie 7 che debutterà sul mercato a novembre, con gli ultimi mesi della vecchia serie 7. Terzo argomento. BMW è una casa automobilistica premium, il che significa che non piazziamo automobili sul mercato a qualsiasi prezzo. Piuttosto fermiamo la produzione per una settimana. Va anche detto che nei primi 9 mesi di quest'anno, incluso il mese di settembre, come gruppo BMW, cioè con i tre marchi BMW, Mini e Rolls-Royce, abbiamo realizzato un aumento dell'1,7% sul 2007, anno in cui avevamo registrato una crescita del 10%. Berlusconi e Sarkozy hanno accennato alla possibilità che l'Unione Europea introduca aiuti di Stato per l'industria dell'automobile. Qual è la posizione di BMW? Negli Stati Uniti c'è un programma di aiuti per l'industria automobilistica che ammonta a 25 miliardi. In Europa dobbiamo chiederci quale sarà l'impatto su di noi di questo piano, soprattutto dal punto di vista competitivo. Secondo BMW sarebbe importante che ci sia anche un aiuto per l'industria automobilistica europea e che questi aiuti vengano legati al tema delle emissioni di CO2. Voi godete di una posizione di forza sulla riduzione delle emissioni. La crisi come influenzerà l'industria automobilistica da questo punto di vista? Dobbiamo distinguere due fasi. Prima il 2009. Per tutta l'industria dell'auto sarà un anno molto difficile. Poi il periodo successivo. Negli Stati Uniti si è deciso di raggiungere dei target di riduzione del consumo molto impegnativi per il 2020, per raggiungere i quali dovremo ridurre i consumi del 4% ogni anno. Un obiettivo ancora più ambizioso di quello europeo. Guardiamo dall'altra parte del mondo, in Cina. In Cina si sta pensando di introdurre una tassa che colpisce le auto di alta gamma con un alto consumo di carburante. Lasciamo da parte il nodo delle emissioni. Come sappiamo, il petrolio è una risorsa limitata e tutta l'industria automobilistica dovrà pensare come evolversi in futuro. Cosa prevedere per il decennio dal 2011 al 2020? Che tipo di propulsione utilizzare? Però è necessario un periodo di transizione, concesso e supportato dalla politica. Non è possibile che per il 2012 l'Unione Europea dica: ecco, ora valgono regole nuove e dovete applicarle, perché, come è noto, noi abbiamo dei cicli di sviluppo abbastanza lunghi, perciò l'Unione Europea deve concederci una fase di transizione tra il 2012 e il 2015. L'Europa Unione muss uns eine Übergangsphase geben zwischen 2012 und 2015. Così Norbert Reithofer, presidente del gruppo a livello mondiale BMW, quindi nessun riacquisto di azioni, difficoltà anche nel 2009 e poi appunto l'invito all'Unione Europea ad agevolare con prestiti e finanziamenti agevolati anche il passaggio verso nuovi modelli auto che abbiano un minore impatto sulle emissioni nocive. Di emissioni nocive è un periodo, l'avete sentito nell'ultima parte, di tra virgolette moratoria per non obbligare l'industria dell'auto, che ha già fatto i piani nel 2012, a cambiare completamente prospettive di costi, di pianificazione. Si chiama 20 più 20 più 20 l'obiettivo europeo da qui al 2020 di ridurre le emissioni di gas nocivi, in primo luogo l'anidride carbonica del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%. Tutto bello, tutto buono, solo che i costi stimati per questi obiettivi sono molto alti e diventano ancora più alti in un periodo in cui l'economia europea, se non va in recessione, quantomeno è in stagnazione. 60 miliardi di euro all'anno secondo Bruxelles, 20 miliardi di euro all'anno solo per l'Italia secondo gli studi del governo italiano. E allora che cosa è successo oggi? Oggi c'è stata una dichiarazione del commissario europeo all'ambiente Stavros Dimas, dopo che in sostanza il Consiglio europeo ha deciso di rimandare a dicembre tutte le decisioni sul pacchetto di misure per combattere l'inquinamento, perché c'era l'opposizione a quel tipo di pacchetto di Italia, Polonia e anche lo scetticismo di Germania e paesi dell'Est. Diceva oggi il commissario europeo Dimas si è detto allibito per la posizione italiana. Ho avuto modo di vedere alcuni dati, per esempio in Italia, e sono allibito, non so veramente da dove vengano fuori. Sono numeri assolutamente al di fuori delle nostre proposte. Inoltre il costo addizionale per l'Italia è compreso tra lo 0,51 e lo 0,66% del PIL. L'Italia sarà uno dei paesi che probabilmente farà l'affare migliore ed è per questo che mi stupisco di tutto il clamore sollevato nel paese. In realtà, in base a uno studio già noto, non lo sto inventando per rispondere alle obiezioni italiane, l'occupazione dovrebbe salire dello 0,3%. Quindi mi chiedo dove siano tutti questi svantaggi, io non li vedo. Inoltre ci sono altri vantaggi che il nostro pacchetto comporta: maggiore sicurezza energetica, il passaggio alle energie rinnovabili, una minore dipendenza dal petrolio e soprattutto molti incentivi all'innovazione. E l'Italia è nella migliore posizione per approfittare di tutto questo. Non capisco perché in Italia si guardi in modo così pessimista al pacchetto, che invece presenta notevoli opportunità da sfruttare. L'Italia avrebbe enormi capacità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, ne ha bisogno, ha la capacità di innovare. E allora perché non innovate? Sono veramente allibito dai commenti di alcuni ambienti in Italia, perché in tempi di crisi finanziaria il pacchetto clima e energia fa parte della soluzione. Così il commissario europeo Stavros Dimas ha risposto a stretto giro il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, che ha detto Dimas si rilega al documento della commissione. E quanto ai costi criticati e contestati dal commissario europeo, poco fa al microfono della nostra Roberta Pellegatta il ministro degli esteri Franco Frattini lo ha invitato ad essere più prudente. I costi sono quelli giusti, cioè la effettività di quei costi è dimostrata addirittura dai documenti della Commissione europea. Quindi io suggerirei al commissario Dimas più prudenza. Abbiamo con altri paesi membri dell'Unione europea ritenuto che si dovesse continuare a discutere, non per contestare gli obiettivi finali, ma per dare ad essi flessibilità, cioè per rendere quegli obiettivi compatibili con la salvaguardia dell'industria europea in un momento in cui il mondo è ormai cambiato per la crisi economica. Quindi la Commissione ha il dovere di richiamare al rispetto dei trattati, ma gli Stati membri hanno il dovere di dire che non possiamo distruggere le imprese in un momento in cui la crisi economica è davanti agli occhi di tutti. E quindi tutto rinviato a dicembre. Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Che piega potrebbe prendere, quale potrebbe essere l'accordo, visto che Polonia, Italia, ma anche la Germania e i paesi dell'est sono molto scettici? Devo dire che le stime che io ho visto sulle riduzioni effettive sono poca cosa, ossia si arriverebbe a un ottavo di quanto è l'aumento di emissioni nocive della Cina ogni anno. Comunque, che soluzione potrebbe essere presa? Ma si vedrà adesso fino a dicembre, quando ci sarà il summit che dovrebbe essere decisivo, il summit dei capi di Stato e di Governo, che dovrebbe chiudere questo pacchetto. Saranno mesi molto intensi di dibattiti e oggi questo scambio di battute tra Bruxelles e Roma lo ha dimostrato. Penso che alla fine si arriverà ad un pacchetto che, pur rispettando gli obiettivi finali, dia margini di flessibilità e ampie deroghe, soprattutto alle imprese energivore, alle piccole e medie imprese, e di anche delle meccanismi di flessibilità, cioè permette alle aziende che investono in tecnologie pulite in paesi terzi di scalare questi buoni di emissione di conteggiarli, diciamo, come utilizzate in Europa. Insomma, necessità di dare alle aziende europee una flessibilità maggiore per non svantaggiarle nei confronti della competizione internazionale in un momento di congiuntura molto sfavorevole. Quindi si potrebbe arrivare a questa formula in cui si va a dividere anche a livello europeo quelli che sono i costi di questo, e così chiudiamo. Ha parlato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Castel Porziano, ha detto legare la difesa dell'ambiente allo sviluppo economico. Bisogna fare un grande sforzo e comprendere che c'è un legame stretto e positivo, non negativo, tra attenzione all'ambiente e risposta alle preoccupazioni per la crescita, per l'occupazione e per lo sviluppo mondiale. Se noi teniamo ben stretto questo legame, troveremo le soluzioni adatte, troveremo cioè la compatibilità che è possibile individuare tra investimenti per sostenere l'economia e investimenti, iniziative per garantire la tutela dell'ambiente e il futuro del nostro pianeta. E con questa dichiarazione del Presidente della Repubblica chiudiamo. Un ringraziamento a Enrico Brivio in collegamento con noi da Bruxelles, e a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi tutti di passare un bel sabato e domenica. Chi non lavorerà, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.